And my name is Ragnar Paisa. Eccoci, come ogni lunedì, puntualissimi dalle 21 alle 22.30, Ragnar Paisa su Controradio. Queste sono le frequenze di Controradio. 055 73 99 33 è il solito numero di telefono se ci volete telefonare. info.ragnampaisa@gmail.com è la mail dove ci potete scrivere, e ragnampaisa.net è il sito dove facciamo riferimento, e quindi vi potete andare a scaricare tutti i nostri mix, le nostre uscite e soprattutto anche tutte le scorse puntate, compreso questa da domani sera. Come sempre, insomma, non cambia niente, eh? Rimane tutto come al solito. Tommy è già in postazione, eh? Sì, facciamo andare Tommy e ci sentiamo tra una ventina di minuti circa per aggiornamenti, serate, novità e news. A dopo. Thank you. benim bir konum var. Yapılacak badana şu gönlümü kaptırdım ben bahçıvan Şaban'a. Şu gönlümü kaptırdım ben bahçıvan Şaban'a. Anne, anneciğim. Bir hatanın kurbanıyız, ağlayacak gözlerimiz. Uyduk herkesin sözüne, el oldu sevdiğimiz. Kimimize cahil dendi, kimimizde yeminlendi. Kimimizin gerçek aşkı, geçici heves bilindi. Aşkla oyun olmaz, seven kalpler kırılmaz. Seven iki insanı ölüm bile ayırmaz. Yeah. Yıllar bizi bizden ayırmış, arkasını göremeyiz sevdiğim. Kaçmış öykülere, hasret özlem türkülere, masadaki duruyor özlenen yerde. Arayıp arayıp bulamadım ne, dün bulmuştum bugün nerede, kayboluyor gerçek nerede. Gözlerimden akan yaşlar dondu kaldı neden bilmem. Sevgi bağım koptu gitti senden mi benden mi bilmem. Gözlerimden akan yaşlar dondu kaldı neden bilmem. Sevgi bağım koptu gitti senden mi benden mi bilmem. Ayrıldık birleşecekken hep gülüp eğlenecekken ayırdılar bizi neden. Kader midir nedir bu bilmem. Hep gülüp eğlenecekken ayırdılar bizi neden. Kader midir nedir bu bilmem. Bir yol düşünsen eline belki bir çaresi vardır. Seven gönüllerde olsa birbirini arar bulur. Bir yol düşünsen eline belki bir çaresi vardır. Seven gönüllerde olsa birbirini arar bulur. Müzik. yârim bir hatıra ver bana zübbünü deminden yârim. Yo yo, ci siamo? Selezione turca. Ci siamo, selezione turca, ogni tanto Scordatevi la playlist di questa roba. No, ma no, primo perché ci sta, ci si sta una settima, bisogna pigliare ferie per scrivere la playlist. Sì, fondamentalmente per quello, insomma. Poi se no la scriverei, nel senso, non è che c'ho un problema a scrivere la playlist, è che ho l'impressione mi ci vorrebbe una settimana per trovare i caratteri sulla tabellina, visto che l'hanno alzo, sì, no? Tocca aprire un'altra un'altra tastiera. Però ogni tanto la selezione turca ci sta, dai. Certo. Così, proprio a strappo, bella ignorante. Certo. Che c'hai lì da punti? Ma io c'ho un sacco di... cioè un sacco, non un sacco, comunque... possiamo dire che è uscito il mixtape di Gaemon. È uscito la settimana scorsa e potete andare a scaricarlo gratuitamente su gaemon.it/a come Ancona, 1 come 1 numero, come l'autostrada, M come Milano. Quindi A1M, che sarebbe, che sta per aspetta un minuto, che è il titolo del mixtape. E il mixtape è mixato da Zura, DJ Zura, e dentro ci sono tutte delle ci sono degli inediti, alcuni inediti, non ricordo se 3 o 4 inediti, tutte delle cose unreleased che non erano uscite da, insomma, c'è anche cose più vecchie, robe del 2006, infatti c'è scritto accanto alle tracce, c'è scritto tutti gli anni, e un paio di tracce live. Ok. Niente, e questo... Supportare, scaricate, in attesa dell'album che uscirà l'anno prossimo, non si sa ancora quando, comunque, gaemon.it/A1M e ve lo scaricate. A proposito di mixtape, se volete andare per la roba italiana, se andate su Rap Burger... .it, c'è un articolo che elenca un po' quali sono i mixtape italiani usciti quest'anno. Io mi sto mettendo al lavoro invece vecchio... per fare il lavoro allucinante che feci l'anno scorso, cioè di fare i mixtape americani. I vecchi post di fine anno, no? Dove uno tira le somme un po' di che è successo durante l'anno. Sì, poi sicuramente scatterà tipo il 28 la classica richiesta: o mi fai per favore, mi fai la classifica. E quindi anche lì. E giù. Sarà, io purtroppo non ci dormo la notte. E giù alle 3 la notte. No, io quando devo fare una classifica non ci dormo la notte. Cioè, come mi sento come... come in alta fedeltà quando alta fa la fedeltà, compilation, infatti, no? Non mi veniva. Quando fa la compilation. No, anche quando gli chiede, quella credo sia una scena eliminata del film, cioè nel DVD, che c'è quella giornalista che gli fa l'intervista, gli chiede la top 5 dei pezzi della vita, sì, e lui gliela fa, e poi dopo si vede che la notte esce per chiamare alla cabina mentre piove, la esce per cambiare i titoli della top 5. E comunque si fa andare biga. Eh? Vai. E noi ci sentiamo dopo. A dopo, biga. We'll be right back. Uma chuva de amor. gosta e sempre seu peito agita e não esgota a paciência. Vive num vendaval de promessas à beça, e vai ter fim a inflação. Este povo que sofre calado, fielmente que morre abraçado ao seu pavilhão, afogado neste mar de ilusão, afogado neste mar de ilusão. Povo sofredor, há de vir amor, há de vir. Se fai carnevale, vola sotto. Esse povo sofredor, esse povo que disputa. Senti, quando non vai al carnevale, cioè tipo venerdì prossimo, il 20. Yeah. Cosa succede all'Ideal? All'Ideal c'è l'Ideal Bar, c'è l'indirizzo Via il Prato. Via il Prato, attenzione, numero? Non lo so, non pervenuto. Non pervenuto. Non pervenuto. Comunque all'Ideal Bar di Via il Prato venerdì 20 c'è l'inaugurazione del disco di Drillo. No, del singolo. Del singolo, sì, scusate, è vero. L'inaugurazione, diciamo, è una festa per il lancio del singolo che è uscito ieri, Truly Beautiful, il quale video potete andarvelo a vedere su YouTube, è già uscito precisamente il 3 dicembre e lo potete anche acquistare su iTunes da ieri. È uscito per Freshio. E niente, all'Ideal Bar questo venerdì chi ci sarà a suonare? Ci sarai te, giusto? Sì. E poi i segugi infernali del purgatorio, che sono degli dei. Esatto. Quindi niente, venerdì se non sapete cosa fare potete andare all'Ideal Bar a fare banda. Se vuoi io ti lascio cantare così. Che pezzaccio. Colossius. Colossius. Colossius. Colossius. C'è da dire altro? Altre serate? Magari dire anche altre serate che ci sono più in qua. A me no. non mi viene in mente niente. Non quindi, lo sguardo così. Telefonateci, lontano. Scriveteci all'indirizzo di mail info molto punto ragnampaisa chiocciola gmail. Che ridi? Info punto ragnampaisa chiocciola gmail punto alot punto com. Ci potete scrivere delle, se ci sono delle serate interessanti, o chiamateci allo 055 33 999 33. Questo è sempre Ragnampaisa, siamo sempre su Controradio e rimarremo con voi fino alle 22:30 e vi vogliamo del bene, vi vogliamo del bene sempre. Ovvio, logico. Questo è Colossius e ci sentiamo più tardi. Colossius. Thank you. meglio me la spiega. We'll be right back. Thank you. senti che stecca. C'è la lancettina qui di Vumite, così proprio, aiuto! No, questo che stiamo sentendo è il nuovo lavoro dei Clover, mm-hmm, che è un gruppo fiorentino che esce su Bosconi e che ha appena rilasciato questo LP, che lo potete trovare in CD, comunque date un'occhiata su Bosconi Records, ed è secondo me un ottimo lavoro di musica dance, che esce un attimino da quelli che sono i canoni della pista di per sé e che diventa, nonostante diciamo che comunque mantenga la sua vena dance, una dimensione di ascolto più per persone come me che sono un pochino più distanti adesso, mm-hmm, da questo genere. Più, mm-hmm, piacevole, perché comunque sono tracce molto lunghe con degli sviluppi molto curati e che quindi si fanno ascoltare molto volentieri. Il disco scivola via, che è una meraviglia. Clovers, andatevi Clover a cercare e a Bosconi acquistare. Poi altro si doveva dire? Noi dobbiamo salutare. Sì, fine così? Va bene, via. Allora facciamo andare Duccio fino alle 22:30. Uh-huh. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 21, come sempre. Stateci bene. Oh yeah. Alla settimana prossima. Ciao. Thank you. the best in me. Said you bring out the best in me. I can never be down. So bring out the best in me. It's not about the things I did to you. Cause you bring out the best in me. It's not about the possibility for we. You bring out the best in me. Said you bring out the best in me.

Yeah.